incazzati, tutti turgi di induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda se al sole sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti e benvenute qua in diretta su Radio ZM, in una di quelle puntate che costituiscono il percorso antifascista in memoria di Dax, che si dà come obiettivo quello di capire quali sono i nuovi significati dell'antifascismo e come questo possa essere declinato in diversi significati dal punto di vista teorico, pratico anche. Oggi noi qua siamo Dario, Rebecca e Andrea della Rete Student Milano per parlare in particolare di antifascismo e istruzione, cioè come l'antifascismo serve all'istruzione e come l'istruzione serve all'antifascismo. Seguiteci. Antifascista, sì. Se vedo un punto nero ci sparo a vista, sì, sì. Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo, c'è una sola violenza che posso accettare. Ciao a tutti e tutte, io sono Andrea e oggi vi parlerò della condivisione di saperi e di come questa pratica e questa forma di istruzione sia fortemente antifascista. Innanzitutto dobbiamo partire da un'analisi breve del nostro sistema scolastico, che nasce, per come lo conosciamo, con la riforma Gentile, ministro dell'istruzione nominato direttamente da Mussolini. È un sistema scolastico che si basa principalmente sul classismo, perlomeno in origine, quindi con gli indirizzi più prestigiosi, quelli del classico sostanzialmente, che ti concedevano la possibilità di poi accedere all'università. Ovviamente tutto il metodo formativo era basato su un frontalismo e un nozionismo che ancora oggi però rimane all'interno della nostra scuola. La condivisione di saperi e quindi l'istruzione tra pari è uno dei metodi di lotta, da questo punto di vista, al frontalismo, più efficaci che ci siano. Infatti, quando parliamo di condivisione di saperi, parliamo di collettivi tematici di autoformazione, di assemblee di confronto, molte volte inseriti anche direttamente in dei contesti di lotta, come le occupazioni. All'interno delle nostre scuole, ad esempio, durante le occupazioni si svolgono numerosi collettivi e lezioni tenute direttamente dagli studenti riguardo agli argomenti più vari, che possono contribuire a formare completamente l'individuo e non semplicemente a trasferire nozioni da un contenitore all'altro, dal libro di testo al cervello dello studente o della studentessa. Tutto ciò per dire che il nostro sistema attuale si basa esattamente su questo, su un trasferimento vuoto e sterile e un momento di confronto tra studenti e studentesse nel quale ci si arricchisce a vicenda è una grande forma di lotta. Il metodo di istruzione come lo intendiamo oggi è fortemente fascista, è influenzato profondamente nell'ideologia e nel pratico, e combatterlo in ogni modo, anche e soprattutto con iniziative alternative, è una grande forma di antifascismo. E anche noi viviamo poi, cioè il nostro metodo di fare scuola è basato appunto su un'istruzione gerarchizzata, come ci hai appena illustrato, ma anche c'è una questione che è quella della valutazione. Sì, quando si parla di scuole, quando pensiamo agli insegnanti, noi pensiamo a persone che sono messe lì per valutarci, per darci un voto, per definire la nostra persona attraverso un numero. Questo è un concetto fortemente errato, fortemente sbagliato, ma fortemente incoraggiato fin dalle elementari, inculcato nelle teste dei bambini e delle bambine. Ovviamente in un momento di condivisione del sapere, in un momento di autoformazione, di confronto, l'esperienza valutativa non esiste. L'arricchirsi e quindi l'imparare non è strettamente correlato a una valutazione sulla persona, ma si tratta semplicemente di un arricchimento e dell'aggiungere un tassello alla formazione di quel puzzle che poi è l'individuo completo. Infatti aggiungo una cosa, legandomi a questo discorso dei voti, del guardare una persona, un alunno, un'alunna come un numero, sin da quando appunto è in prima elementare, a parte che appunto purtroppo fa parte della nostra cultura, io per esempio mi sento un 7 costante, per dire, e questo, diciamo, l'apice di questo sistema, di questo pensiero, si vede appunto in questo anno di pandemia in cui con un'estrema facilità hanno pensato di chiudere le scuole. Ovviamente all'inizio del 2020 magari era la cosa anche giusta da fare, non conoscendo il virus, adesso poi non entriamo nel dettaglio di un'analisi sanitaria, però poi hanno perpetuato questa chiusura, a settembre poi hanno riaperto, poi hanno richiuso a novembre, poi hanno riaperto adesso e un'ora fa ci hanno detto di nuovo richiusi, certo, perché in zona gialla si sono ovviamente alzati i contagi, ma di sicuro non nelle scuole, e questo penso lo sappiano anche appunto i cosiddetti piani alti che hanno deciso di chiudere le scuole. E appunto è un'incoronazione di questo sistema, di questo nuovo modo di vedere la scuola, perché appunto la didattica a distanza non ci permette quel confronto vero e proprio, quell'istruzione umana dell'individuo, ma appunto è un semplice modo di fare scuola nozionistica frontale, nella quale poi serve solo un modo di essere valutati anche online, accaparrato un po' a caso, cercare di portare a casa un voto e poi avere la pagella finale. E questo appunto è totalmente sbagliato. Sì, poi appunto a proposito di questo che tu hai appena detto, ci hanno appena comunicato il fatto che da mezzanotte la Lombardia diventerà zona arancione rafforzato. E questo arancione rafforzato alla fine, grazie, questo è uno dei primi provvedimenti del governo Draghi, tanto osannato appunto, ma sostanzialmente zona arancione rafforzata significa che chiudono solo le scuole, mentre invece tutte le altre attività non essenziali possono rimanere aperte, possono continuare a fare quello che vogliono. E quindi è chiaro che la svalutazione in questo che stiamo vivendo in questo periodo, la svalutazione di quello che già era un sistema fortemente sbagliato e sicuramente non mirato alla formazione reale e critica degli studenti e delle studentesse, vediamo come si accentua ancora di più durante questo momento di pandemia. Addirittura nell'ultimo decennio noi abbiamo assistito a una progressiva privatizzazione e aziendalizzazione addirittura anche della scuola, anche con l'introduzione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro e quindi con la concezione che lo studente o la studentessa debba essere formato in quanto futuro lavoratore o lavoratrice e non in quanto futuro individuo e membro attivo di una società. Tutte queste riflessioni e tutti questi cambiamenti non solo pratici ma anche ideologici nel modo di vivere la scuola hanno portato poi a tutta una serie di tagli strutturali, come se la scuola fosse una banale azienda, che hanno portato alla situazione di fragilità nella quale ci troviamo adesso, per cui mancano addirittura le strutture per poter preparare un rientro in sicurezza in determinate parti del nostro paese. Addirittura ci sono scuole che cadono a pezzi da ben prima che arrivasse la pandemia, un problema che ancora una volta non viene affrontato nemmeno quando si tratta di doversi spartire tutta una serie di fondi che invece potrebbero aiutare a ripartire. Sì, e inoltre, poi come ultima, poi facciamo una piccola pausa musicale, un'altra questione che mi sento di dire, un piccolo appunto, è che tornando sul discorso della valutazione, che alla fine, poi noi appunto, come diceva benissimo Rebecca prima, cioè alla fine la nostra valutazione che riceviamo a scuola all'interno della società ci identifica come persone, cioè io sono un bravo ragazzo se vado bene a scuola, se rientro in quei canoni dell'istruzione che noi dobbiamo vivere tutti i giorni, che però sono quei canoni che abbiamo visto essere sbagliati o comunque sicuramente non funzionali a uno sviluppo reale della persona. Quindi è anche importante capire come, cioè, quel mondo che noi viviamo dentro scuola, che è appunto un retaggio comunque in un certo senso fascista, che abbiamo visto essere una banale trasmissione sterile di conoscenze da una parte all'altra, poi si riflette anche su quello che noi siamo agli occhi delle persone fuori dal contesto scolastico. Never give up. Cervello acceso, tele spente, esplode sul boomba. In città la milizia si vizia. Colpi in faccia, morti in piazza, in sabbia non la notizia. Cerchio di fumo ipnotizza. Non respiro se l'aria mi vizia. Mentre fanno altro giro la ruota dell'ingiustizia. La massa non realizza, si uniformizza. Si anestetizza col video la sua immondizia. Impazza la curva sulla scissa. Con Conister mi analizza. Io sull'obiettivo spengo la sizza. Ho un'identità fittizia sulla strumentale. Sto dalla parte del criminale. Se non siede al criminale, sputo sul Quirinale. Scomunico il cardinale. Comunico slang illegale. Per chi non si arrende al male, sguaina la katana. Fuma Shketama. Spingo il sound antimadama. Giungla urbana, la trama del drama. It's hard to do. spalla fra mondo che crolla ne va che va. Odio nel serbatoio, testa di cuoio. Già noi, generazione post BR, figli della bomba. Voi, generazione di PR, figli della bamba. In strada sbirri e tatanca, guerriglia ferro più spranga. Porci in divisa, la squadra della uno bianca. Merde. La gente stanca, il fuoco ne carbonizza il tantra. Se. Cresce col sangue, vuole il piombo come nei 70. Lotta di classe tra figli e masse. La rivoluzione amplificata dalle vostre casse. Killer dog argentino dal tuo subwoofer. Vivo se scrivo in giro clandestino su una Mini Cooper. A Milano, giustizia come va bene. Ogni fame assassino, uno sbirro fedele al dovere. Fra, dalle galere alle botte nelle pantere. Come misera la vita negli abusi di potere. Yo yo, eccoci qua. Siamo sempre in diretta per affrontare un altro discorso sulla scuola e l'antifascismo. Certo, ovviamente prima parlavamo appunto di antifascismo, perché antifascismo nelle scuole, perché ovviamente l'istruzione è la base di quello che succederà poi nella società, nella città, nello Stato dopo, e quindi ovviamente è essenziale portare un certo tipo di lotta anche nelle scuole. Questo ovviamente è sempre in qualche modo successo, perché quando si fronteggia sia davanti a una palese ingiustizia come il fascismo, è normale che umanamente è normale che nascano vari tipi di protesta per cercare di contrastare questa cosa. E ovviamente nella storia sono sempre nati dei movimenti definibili antifascisti, e non tanto perché magari un movimento non nasceva propriamente e solamente per appunto andare a contrastare un certo tipo di movimento fascista, persone fasciste e governo fascista e per così via, ma in generale nella storia e anche adesso nel panorama moderno, nonostante ci siano ovviamente i neofascismi e i vari movimenti e compagnia bella, essere un movimento antifascista significa più che altro andare a contrastare in generale, a livello appunto della società e umano, tutte quelle ingiustizie che sono definibili fasciste. Perché? Perché anche appunto negare un certo tipo di istruzione alla scuola, oppure forzare un certo tipo di istruzione, come diceva prima Andrea, appunto l'alternanza scuola-lavoro, l'ossessione dei voti, del programma, eccetera, è definibile in qualche modo fascista, perché è una negazione di diritti, di espressione, di libertà. E quindi ovviamente il fascismo ha varie sfaccettature, non è solamente chi osanna Benito Mussolini, chi odia gli immigrati, eccetera, ma ha ovviamente varie sfaccettature. Nella storia quindi sono nati vari movimenti studenteschi, magari appunto mi soffermerò più su la parte studentesca, essendo noi appunto oggi qui per parlare di scuola più che altro. E ovviamente ci viene in mente una data lampante, che è il 1968. Da lì è nato infatti il movimento studentesco in Italia, che era uno, e le organizzazioni della sinistra extraparlamentare, che perseguivano lotte politiche all'interno delle università e delle scuole. Avevano come obiettivo soprattutto l'attacco frontale al sistema, quindi era una lotta generale più ampia e più sfaccettata, piena di sfumature, non ci si concentrava in un solo territorio, in una sola unica lotta, ma appunto aveva molte sfumature. Mentre dopo, negli anni successivi, in particolare dal 2008, l'obiettivo sembrava essere piuttosto la difesa della crisi economica e la paura del proprio futuro, come approfondirò tra poco. Appunto nel 68 nasce appunto il movimento studentesco, come ho detto, poi verso gli anni di piombo, quindi per intenderci tra il 77 e tra il 76 e il 78, ci sarà proprio una nuova protesta studentesca, un nuovo tipo, che sarà incentrato sul rifiuto rivoluzionario del sistema, dei partiti e dei sindacati. Quindi saranno appunto gruppi della sinistra extraparlamentare, e questo periodo fu caratterizzato dalla appunto dichiarata contestazione al sistema dei partiti e dei sindacati, ma anche dei movimenti politici. Questo periodo purtroppo finisce a breve, perché con l'inizio degli anni Ottanta, con l'omicidio di Aldo Moro, le Brigate Rosse e tutto quanto, si avrà un po' uno spegnimento di quelli che sono i movimenti studenteschi, e quindi non avranno più troppo margine di lavoro, sia per appunto, diciamo, la fine tragica, per come è stata vista dall'Italia, del lavoro delle Brigate Rosse. Non era più un momento in cui si poteva lottare come facevano prima. E quindi ci vorrà una decina d'anni prima di ritrovare un po' una focalizzazione della lotta studentesca vera e propria. Infatti negli anni 90, 89-90, nascerà la Pantera Siamo Noi, che è un altro movimento studentesco rivoluzionario, che nasce in particolare con l'occupazione dell'Università di Palermo. Però non durerà tantissimo come movimento, però comunque è da considerarsi come tale. Negli anni 90 poi si assiste a un altro fenomeno che cambierà un po' il panorama politico rivoluzionario dell'Italia, ovvero che c'è un po' la dispersione di questi movimenti generali accalcati, che appunto, come dissi prima, facevano lotte generali insieme, ma c'è un po' una riorganizzazione nei centri sociali, ovvero c'è un consolidamento delle attività dislocate sul territorio, quindi cessano di esistere i movimenti generali e ogni regione, ogni città, ogni realtà politica comincia a pensare per sé, quindi al proprio problema territoriale. E poi ovviamente ci saranno state occasioni per riunirsi in lotte più comuni statali, però si ha un po' questo cambiamento. I centri sociali quindi diventano il perno attorno a cui girava l'autonomia, l'auto-organizzazione, e quindi si ha questo cambiamento. Ma l'ala studentesca comunque diventa un po' più marginata e marginale, e perse un po' di importanza in questo momento, perché appunto si ha un nuovo profilo storico, un cambiamento. Però in questo clima hanno appunto i movimenti studenteschi l'occasione di creare appunto piccole associazioni prettamente studentesche, quindi concentrate sulla scuola, quindi si ha anche qui un cambiamento. Infatti dal 1997-98 si ha appunto un cambiamento anche sotto questo punto di vista, perché le proteste studentesche diventano prettamente studentesche, ovvero quando si iniziano ad avere delle riforme appunto cosiddette definibili fasciste, come abbiamo detto poco fa. Ad esempio la riforma Berlinguer del 98 venne fortemente contrastata con proteste e scontri, e questo appunto è da considerarsi un movimento antifascista per il ragionamento fatto prima, perché appunto erano studenti e studentesse che lottavano per i propri diritti, per la scuola che volevano avere, e non per una scuola centrificata e tutti i problemi che portava la riforma Berlinguer. Inoltre poi negli anni 90 ci sono anche la ripresa dei movimenti radicali di destra. Infatti Fiore, insieme, dopo la morte di Morsello, Fiore fondò l'organizzazione neonazista, che diventerà nota poi anche tuttora con il nome di Forza Nuova, e quindi anche qui si ha proprio prettamente una lotta antifascista contro persone che dichiaratamente si dichiarano fasciste e nostalgiche, per così dire, e quindi anche questo è un nuovo contrasto da superare e con cui fare i conti, diciamo. E appunto, riprendendo il discorso del nuovo panorama politico per cui gli studenti e le studentesse nei propri movimenti, unioni, collettivi, coordinamenti si coordinano appunto in nuove lotte, nuovi scontri verso appunto quelle riforme che bloccavano la scuola e non la rendevano libera come deve essere, laica, solidale, equa. E per esempio il 2003-2005 ci sono state le contrassegne della protesta contro la riforma Moratti. Nel 2008-2009 si crea l'Onda Anomala, che è un movimento di studenti universitari e studenti e studentesse del liceo, nato negli Atenei e nelle scuole superiori italiane nell'autunno appunto del 2008. Questo movimento è nato in seguito all'approvazione sotto il governo di Berlusconi di diversi decreti legge in cui appunto la scuola veniva sottomessa in qualche modo. Tra cui, tra l'altro, scusatemi, ricordiamo, sì, prima ultimo appunto, cioè un appunto così, che la Moratti, che ha devastato praticamente la scuola pubblica, certo, ce la ritroviamo adesso assessora al welfare nella nostra amata regione Lombardia, quindi esatto. Tutto ritorna. La storia non si ripete, ma uguale, ma inquietantemente simile. appunto poi per proseguire dal 2010 al 2011 si forma il movimento di Draghi Ribelli, perché appunto dal 2010 si assiste sempre inevitabilmente, inesorabilmente in una climax di tagli all'istruzione, e questi purtroppo ci gravano ancora tuttora, perché appunto vengono tagliati i soldi dedicati all'istruzione, e questo è secondo noi una mossa totalmente appunto definibile in qualche modo fascista, sempre perché è il dare meno spazio a quella che è la cultura, all'istruzione giusta per una scuola pubblica, ma per darli magari appunto al profitto, alla grande azienda, ad altre cose, privatizzazione, come diceva prima Andrea sempre. E appunto quindi le proteste studentesche vertono soprattutto su questo. Poi ci saranno anche appunto le proteste del 2012 tra studenti, studentesse e precari della scuola, quindi appunto si uniranno anche l'aspetto appunto della scarsa istruzione, della scuola appunto sotto matrice fascista, e i lavoratori e lavoratrici contro le politiche del governo Monti, appunto in particolare nel 2012, e i tagli all'istruzione, sempre questo è. E niente, quindi appunto per dire che i movimenti studenteschi antifascisti sono tutti quelli che cercano nella storia, ma anche oggi, cercano di contrastare quelle forme di governo, ma anche in generale tutte quelle forme che impediscono di vivere una giusta scuola, la scuola che vorremmo, che meriteremmo, quindi quella che ci dà un'istruzione a tutto tondo, un'istruzione laica, solidale, equa, una scuola accessibile a tutti e tutte, una scuola antisessista, una scuola che ci formi non solo appunto sul programma ministeriale deciso da chissà chi, che non va a toccare argomenti di attualità, ma appunto devono essere i movimenti studenteschi, i nuovi collettivi antifascisti a pensare di istruire la scuola tramite assemblee di istituto, collettivi su argomenti effettivamente importanti. E soprattutto adesso una piccola riflessione, poi chiudo, passo la parola ai miei compagni, è che c'è un nuovo panorama, soprattutto ultimamente, dal momento che i movimenti non sono più purtroppo quelli che agiscono per contrastare immediatamente e cambiare immediatamente una determinata cosa, perché purtroppo quello appunto si aveva magari nel 68, quando si poteva fare la rivoluzione armata e c'era molto più, diciamo, spazio, perché purtroppo adesso con nuove forme di repressione e poco consenso da un certo punto di vista, per vari motivi ovviamente, il panorama politico è molto cambiato, sociale, politico, ma più che altro i movimenti studenteschi adesso hanno come obiettivo soprattutto sensibilizzare, informare, iniziare una lotta dal basso, e quindi dalle scuole, iniziare a istruire le cosiddette nuove leve appunto, informarsi sul fascismo, il neofascismo, neoantifascismo, e così da poter contrastare insieme poi effettivamente quello che c'è da fare. Ottimo. Sempre stato zitto, modo caserbato. A questo fottuto rack scrivo barre dure come giocavo al campato. Sgremo dire tutto l'atto. La fiducia scivolata dentro quel tombino. Viaggio da che ero bambino. Butto quella mela dentro il tuo giardino. Fumo tutta l'erba dal mio vicino. Sempre giù in caserma da ragazzino. In zona faccio sempre un modo per fare casino. Chi si serve del potere giù del contadino. Gli ha servito da mangiare solo pane fino. Dammi uno scherzo, non film, vai a piccino. Morire in Sicilia come un clandestino. Sempre di vigile come un malandrino. Scappo sempre dagli sbirri come San Firmino. Isa. Fisca il vento in furia la bufera. I'm running out of lifelines. I'm having trouble getting sleep up in the nighttime. Searching through my conscience, feeling scared of what I might find. I ain't in my right mind, we ain't in the right time. Got me in a tight bind, death is in a pipeline. Pedaling, pedaling up the hill, it's like it's bite time. Felony, felony, felony, you trying to take mine. Batman, pull up. Batman, rob, and he say he got bullets. Four leaf clover to my haters like, good luck. You shoulda, coulda, woulda, you woulda, coulda, shoulda. You niggas ain't fucking with me. You pay when you fucking with she. Meanwhile, I'm fucking for free, and she is the world. And then I go fuck with your girl. Al vento in furia la bufera scar. E su queste note così trash. Vabbè, da un certo punto di vista, ma è anche un po' il bello. E insomma, di quello che hai detto, di quello di cui ci hai appena parlato, Reb, è emersa una cosa piuttosto chiara, cioè che alla fine i movimenti studenteschi da sempre hanno cercato di cambiare le cose, essendo poi alla fine i giovani, i e le giovani, cioè noi in questo caso, ad essere le persone che più risentiranno, no, delle cose che si fanno nel presente, perché poi essendo loro, cioè essendo noi gli abitanti lì e le abitanti del futuro, poi tutto quello che noi andremo a, tutto quello che succede adesso, poi alla fine lo rivedremo, cioè lo vivremo noi in prima persona. Quindi dal nostro punto di vista c'è sicuramente spesso una maggiore coscienza rispetto a quello che si deve fare per contrastare queste cose, anche perché appunto, banalmente, proprio parlando del fascismo, essendo, cioè, nelle scuole deve essere una delle cose che si insegna di più, perché non deve essere ripetuta una cosa del genere. E quindi il fatto tra l'altro di doverlo fare noi stessi, cioè noi, cioè da studenti e studentesse, per studenti e studentesse, è anche un po' indicativo di come alla fine il sistema scolastico non voglia realmente andare a informare su questo tipo di tematiche, o se lo fa, perché ovviamente succede, però in modalità sempre che non costituiscono uno strumento reale per poter interpretare la realtà, che è un po' l'obiettivo che dovrebbe essere la scuola. Cioè la scuola dovrebbe in qualche modo fornire gli strumenti a qualsiasi individuo per comprendere realmente ciò che gli sta intorno. Sì, discorso che si ricollega tra l'altro al fornire strumenti di analisi critica agli studenti e alle studentesse, che è un lavoro che aiuta appunto a formare persone e individui consapevoli in un futuro. Certo che a livello sistemico molte volte fa proprio più comodo forse avere individui abituati a essere gerarchizzati rispetto al poter pensare con una propria iniziativa e ad essere capaci di analisi critica. Tutti quegli strumenti di consapevolezza che devono aiutare nella lotta ai neofascismi, ma in generale al processo di formazione, purtroppo non vengono più portati direttamente, o forse non lo sono mai stati, dal sistema scolastico italiano, ma devono essere portati in forma alternativa molte volte dagli stessi movimenti studenteschi. Ma certo, che tra l'altro vergognosamente vengono anche talvolta contrastati, visti come, non lo so, dei pazzi scelerati, pazzi e pazze scelerate, che appunto perdi tempo, che vogliono solo i facinorosi, certo, teste calde. Ma poi appunto il fatto, come diceva Dario, di non dare abbastanza spazio alla storia moderna, a quello che effettivamente ci tocca più dal vivo, basta guardare al programma ministeriale della storia. Cioè noi dalla prima elementare, poi di nuovo si ricomincia alle medie, poi di nuovo si ricomincia dal liceo, la storia inizia dalla nascita della Terra, va bene, lo fai una volta alle elementari, magari alle medie, rispolveratina, ma porca miseria, stai un anno intero sui Fenici, sugli Assiri Babilonesi, sugli Aztechi, che va benissimo, interessante, però per poi, certo, però poi arrivi in terza media oppure in quinta liceo che il professore o la professoressa di storia rincorre il programma per arrivare a malapena agli anni di piombo, se si è fortunati, forse qualcuno arriva al governo Berlusconi, però comunque c'è un problema di fondo, perché non si può arrivare a semplicemente appunto a quello che ormai sono, quanto, 30 anni fa. Sì, ed è qua che c'è l'evidenza di come non ci si vuole, cioè non c'è la reale volontà di darci gli strumenti per comprendere ciò che noi viviamo, perché è ovvio se appunto, come diceva Rebecca, il programma scolastico si ferma, se va bene agli anni 70, primi anni 70, poi noi non possiamo comprendere quello che succede dopo, che alla fine è come si è formato il nostro mondo, cioè gli anni 70 e oggi sono due mondi completamente diversi, è tutto diverso, tutto completamente diverso, non solo dal punto di vista politico ma anche sociale ed economico. E quindi senza studiare a scuola, nel luogo che dovrebbe essere formativo, la società nella quale viviamo è chiaro che ci sia un problema proprio strutturale e nelle fondamenta. È assurdo e paradossale che gli strumenti di comprensione degli ultimi 50 anni e quindi del mondo contemporaneo e dei fenomeni che lo attraversano debbano avvenire semplicemente e solamente in maniera alternativa, da parte appunto dei movimenti, che molto spesso addirittura dal sistema vengono condannati e repressi anche attraverso effettivamente l'utilizzo della repressione legale. Quindi paradossalmente non c'è effettivamente un interesse nella formazione reale da parte del nostro sistema. Esatto. O almeno nella formazione che se, cioè nella formazione reale moderna, perlomeno. Esatto. Nella comprensione del mondo che ci circonda. Esatto. Che è ridicolo, perché noi sappiamo a memoria come gli egizi hanno costruito le piramidi, ma non abbiamo idea del perché siamo in un mondo che ha ancora le disparità sociali che si manifestano visivamente. Non abbiamo idea di che cosa, di come sia stata realmente la globalizzazione, di cosa c'è stato dopo il governo Berlusconi, la trattativa Stato. Non sappiamo praticamente. Niente. Queste cose non vengono in nessun modo trattate a scuola. Gli anni di piombo, il terrorismo trattati in maniera marginale, una cosa assolutamente ridicola. E bene, e adesso appunto ci siamo un po' sfogati, chiaramente avevamo un po' di rabbia da esprimere riguardo a quella che è la scuola che stiamo vivendo, e soprattutto che saremo costretti a vivere ancora per vari anni, perché sicuramente una rivoluzione, una riforma non è purtroppo vicina alle porte, soprattutto che se continuano a chiuderci a casa. E adesso volevamo fare una cosa, ovvero cercare di confrontarci anche con persone esterne, e persone esterne sempre ovviamente di varie scuole. Noi ad esempio siamo tutti e tre studenti e studentesse del Liceo Classico Manzoni. Però volevamo un po' fare un paio di chiamate magari a uno studente ad esempio del liceo Agnesi e poi un'altra chiamata a una studentessa del liceo Virgilio, per chiedere un po' appunto un, diciamo, un parere, un'opinione su quello che appunto secondo loro è il nuovo antifascismo, che rapporto ha con l'istruzione. E andiamo quindi dunque ora a chiamarla. Questa è Margherita del Virgilio, che spero risponderà. È il bello della diretta questo, non sì. Sapere che cosa potrà succedere. Ottimo. Appunto. Proviamo con Ernestino. Proviamo con Ernesto dell'Agnesi. Ehi. Ehi, Ernestino, sei in onda diretta e direttissima su Radio ZAM. Che onore. Che onore, infatti. E dunque, non ti rubo troppo tempo perché immagino tu sia impegnatissimo. E, volevamo rivolgerti solo una semplice domanda. Cioè? Ovvero, secondo te, come l'antifascismo serve all'istruzione e, analogamente, come l'istruzione può servire all'antifascismo? Le tematiche antifasciste e antifascismo vengono portate avanti quasi unicamente dal collettivo studentesco, con le assemblee pubbliche, con le autogestioni. Nell'istruzione c'è una grande carenza di quelli che sono i principi dell'antifascismo e nell'applicazione anche di essi. Sicuramente bisogna anche ragionare sulle tematiche che la scuola non trasmette, nel senso che banalmente le tematiche riguardanti il transfemminismo, riguardanti l'ecologia, vengono spesso messe nei percorsi scolastici degli studenti e delle studentesse. Anche quest'anno c'è stato un vano tentativo di fare delle ore di educazione civica, ma è andato tutto a degradarsi. Banalmente basti pensare che i professori, i docenti a cui erano affidate l'educazione civica non erano preparati a fare dei lavori simili. Quindi tutto ciò che potrebbe avvicinarsi all'attualità, all'antifascismo, delle tematiche che potrebbero ferrare gli studenti e le studentesse per integrarsi meglio nell'antifascismo vengono affrontate saltuariamente, no? E questo è un disastro, è un problema enorme per l'istruzione. L'istruzione invece serve all'antifascismo sicuramente, perché è la culla delle nuove generazioni che devono crescere e uscire dai licei e dagli istituti con la consapevolezza di che cos'è il fascismo e di come riconoscerlo, anche perché il fascismo cambia faccia. Il fascismo adesso è nelle periferie, sono quelli che parlano agli italiani, no? Ormai i fascisti sono quelli, bisogna imparare a riconoscerli e a conoscere i loro rischi e i disagi che possono portare. E quindi sicuramente l'istruzione serve all'antifascismo per questo, nel senso che l'antifascismo è una tematica che è sempre attuale e l'istruzione dovrebbe aiutare a sensibilizzare gli studenti e le studentesse proprio a questo cambiamento di faccia, insomma, a relazionarsi col fascismo, che è una cosa che è sempre attuale, sempre. Ma quindi sostanzialmente il modo di scuola che noi viviamo oggi è quasi inutile da questo punto di vista per fare le cose che ci stai dicendo qui in questo momento, essendo... Sì, diciamo che il luogo di, il contesto scolastico è assolutamente poco stimolante da questo punto di vista, qui non ci sono dei programmi pronti per rispondere a questo genere di cose. Certo, ma anche gli esempi che dà la scuola sono totalmente sbagliati. Anche nella nostra scuola, al liceo Agnesi di Milano, banalmente abbiamo avuto delle situazioni di, a parte degli eventi sessisti, ma abbiamo anche avuto moltissimi eventi di privatizzazione. Certo. Banalmente la struttura gerarchica della scuola. Veramente la struttura gerarchica della scuola che, appunto, come abbiamo detto prima, non favorisce il tipo di insegnamento di cui abbiamo realmente bisogno. Certo, ovviamente. Faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare, perché appunto, come diceva prima Rebecca, sei pieno di impegni. Volevo chiederti, la valutazione in questo senso, cioè si può considerare fascista perché magari va a escludere a priori un certo tipo di competenze o anche un certo tipo di persone? Cioè, come la valutazione nel nostro sistema si può definire fascista? Vabbè, io credo che la valutazione da un certo punto di vista sia fascista, perché intanto è un metro di competizione agguerrita. Quando parlo della scuola dell'io e non dell'insieme, della partecipazione, anche questo, cioè la competizione contribuisce tantissimo, cioè la valutazione contribuisce tantissimo a questa competizione violenta, no? Che poi si crea tra le persone. Sì. Certo. E va bene, grazie mille, a meno che voi non abbiate altre domande da porre al nostro amico Ernesto. Ma direi che è stato abbastanza esaustivo e soddisfacente, che dice Andrea. Ma sì, ci è piaciuto. E niente, allora grazie mille, continua la diretta e a fra poco con altri interventi da altre scuole e niente, continuiamo su questo, sui microfoni di Radio ZAM. Che pecorella sei? Non c'hai un numero, un nome, un cognome, niente, vabbè. Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. Ah! Io sono chi sei, tu sei chi sei. Ah! Vero pecorella? Ah! Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera. Ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Io ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera. Ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera. Torino, mentalità ultra, vecchia maniera, solo in qualche vecchia foto sta città era bianca e nera. Ah, sì. A, B, perché siete tutti uguali sotto il casco e la visiera. Siete tutti uguali, indosso la divisa, in testa vecchi ideali. Giovani fascisti contro giovani precari. vecchie strategie contro vite amatoriali, giochiamo ad armi pari, a guardie e ladri con i gradi, siete bravi con le mani, siete infami, schiavi, sbirri in quanto tali, abbiamo fatto scelte diverse, voi dalla parte del più forte per sentirvi meno, merde, avete il ferro in tasca ma sti cazzi a me non serve, non ho la divisa ma ho le palle almeno, quelle non siete pecorelle, ma lupi travestiti, e non citare Pasolini, non sai quello che dici, sarà dura, ricorda sarà dura, non senti più il dolore né la fame o la paura, ricorda sarà dura, hai fatto la tua scelta, io ho fatto la mia, polizia di stato, stato di polizia, sarà dura, ricorda sarà dura, non senti più il dolore né la fame o la paura, ricorda sarà dura, hai fatto la tua scelta, io ho fatto la mia, polizia di stato, stato di polizia. Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti giudicate come eroi da una nazione intera, ragazzi come noi che si prendono manganellate giudicati come avanzi di galera, mi hanno detto non esiste più la destra e la sinistra, fanculo, io so riconoscere un fascista anche senza la divisa e il manganello, la libera espressione non esiste, sei la merda nel cervello, quindi state zitti, state zitti, quegli infami non diventano innocenti anche se assolti o prescritti, don't clean up the blood, quel sangue non va via, polizia di stato, stato di polizia. Eccoci di nuovo con un'altra chiamata dopo che abbiamo sentito l'ottimo intervento di dell'Agnesi, direi che ha saputo riassumere un po' quello che stavamo cercando di dire. Adesso un altro intervento da Chiara del Manzoni, sentiamo che cosa da dire, che cosa da dirsi rispetto a questa cosa. Ehi tesoro, pronto? Ciao bellissima, senti, sono collegata su Radio Zam, ma immagino lo sapessi già, e volevamo farti una domandina, questa era puntata in particolare sull'antifascismo nelle scuole, l'istruzione eccetera, e su cui tu sei abbastanza ferrata, tra l'altro hai una certa fama, comunque, volevamo farti una domanda, appunto, secondo te come l'antifascismo serve all'istruzione e come l'istruzione serve all'antifascismo? Se non è chiaro possiamo parafrasare. Ma è chiarissimo. Allora, partendo dal presupposto che fascismo vuol dire odio, cioè il fascismo sin dalla sua origine ha contribuito e anzi è la matrice, possiamo dire, della diffusione dell'odio, dell'odio culturale sistemico, ma soprattutto dell'odio per categorie che possono essere etnie, religioni e quant'altro. Come si combatte l'odio? L'odio si combatte con l'istruzione, cioè l'odio si combatte con la cultura, con l'informazione, perché appunto odio è ignoranza, cioè lo sappiamo bene, odiare una determinata categoria di persone, odiare il genere femminile, odiare una determinata religione diversa da quella cattolica è disinformazione, è ignoranza, e l'ignoranza si combatte con l'istruzione, cioè l'istruzione è l'unico modo per fare cultura, è l'unico modo per elevarci spiritualmente, se così possiamo dire, e distaccarci dal fascismo che sappiamo bene stare nelle fogne. E insomma direttissimo, insomma, senza mezzi termini, vediamo insomma, cioè antifascismo è istruzione, per così dire, non si può combattere l'ignoranza senza la cultura e soprattutto senza la diffusione della cultura, che è ciò che si cerca di fare da avanguardia, da collettività antifascista, che cerchiamo di fare col collettivo, che cerchiamo di fare anche come Student Milano. Insomma, l'antifascismo è una quotidianità che senza istruzione non può esserci. Bellissima risposta intanto, molto esaustiva, ma poi volevo soffermarmi su una cosa che hai detto. Hai detto in particolare il fascismo è odio verso... Mm-hmm. E, E infatti qua si apre il pallino del paradosso dell'intolleranza, no? Della tolleranza verso gli intolleranti, intolleranza verso gli intolleranti, eccetera. E non intolleranti al lattosio, a diace, eccetera. No, grazie. Sei squallida, Rebecca. Lo so. Comunque, appunto, si apre quel discorso per cui appunto la valvola di, diciamo, di risposta verso gli antifascisti che i neofascisti hanno sempre avuto è stata, prima di tutto, Ema le foibe. Secondo, dopo questa, soprattutto, era il ma voi ci impedite di esprimere il nostro fascismo, le nostre ideologie, e quindi siete fascisti. Voi ci odiate e quindi siete fascisti. Voi siete fascisti tanto quanto noi, esatto. perché ci fate esprimere il nostro libero pensiero. E quindi questo è un po' il paradosso, appunto, dell'intolleranza, che quindi per cui noi antifascisti inteso, odiamo in qualche modo gli i fascisti, perché appunto hanno un odio molto più esteso, molto più, tra virgolette, cattivo, accanito verso quelle etnie che sono appunto le minoranze, quelle le minori, quelle più prese di mira. Mentre appunto, non lo so, se hai una risposta anche per questo, una riflessione. Ma allora, secondo me il paradosso dell'intolleranza è molto interessante a suo modo, perché a parte il basso quoziente intellettivo che si può avere per dire ad un antifascista sei un fascista quanto noi, ma tralasciando questo, io penso che si possa spiegare in un modo davvero banale e semplice, cioè odio chiama odio, nel senso che noi non diffondiamo l'odio, la nostra cultura non si basa sull'odio. È odio mosso d'amore. La nostra metodologia politica non è l'odio, anzi il contrario, è anzi l'amore, è anzi insomma l'accettazione di ogni tipo di diversità, qualsiasi essa sia, ma per odio chiama odio si intende che noi odiamo chi odia, odiamo sbirri, odiamo fasci, odiamo chiunque abbia una cultura dell'odio, perché non si può rispondere in altro modo, perché quella persona, cioè un fascista, non può, come dicevo prima, elevarsi spiritualmente ad un discorso di un altro tipo, non può accettare un discorso di un altro tipo, è lo stesso discorso della violenza, che secondo me si può spiegare davvero così, semplicemente. Anche perché poi, a proposito di questo che hai, del discorso che abbiamo appena introdotto, no? Del fatto che questo paradosso della tolleranza, cioè la questione è spesso che ci viene detta quando si prova a fare una certa dimostrazione antifascista, cosa succede quando si prova a dire, ma certo, appunto, voi però, voi non potete fare così perché si deve garantire sempre la libertà di pensiero. E quindi è qua che entra in realtà l'istruzione. È qua che entra la cultura formativa, perché è qua che si deve capire che c'è un odio e c'è un altro odio, diciamo, tra virgolette, che è quello di cui hai appena parlato tu. Ed è quindi anche per questo che l'istruzione deve formare sull'antifascismo. Certo, c'è anche da dire che senza un'informazione critica, cioè un'informazione che educhi a pensare, non a pensieri, no? La classica frase che qua torna utile. Non si riconosce quando è libertà di pensiero e quando invece è diffusione di odio velata dietro a frasi fatte, discorsi del genere. Quando gruppi neofascisti vengono a volantinare davanti alle scuole e ci dicono proprio questa cosa del voi state limitando la nostra libertà di pensiero, si risponde che la tua libertà di pensiero finisce quando inizia quella di altri e altre, e se nella tua libertà di pensiero vai a sfondare questo limite e vai invece a limitare quella di altri e altre, stai creando un problema per la società, stai creando un problema per tutte le persone che ti stanno intorno e stai creando un problema per gli studenti e le studentesse di quella scuola lì. Per questo appunto la cosa, cioè, e qualcuno non informato sotto questo punto di vista può anche dirgli sì, hai ragione. Tu hai tutto il diritto di fare le tue attività politiche, perché tanto come ce l'hanno gli antifascisti ce l'hai anche tu, e invece no, si deve riconoscere quando appunto la libertà di qualcuno va a violare quella di altri e altre, e il fascismo è proprio l'apice di questa, di questo tipo di concetto qua. Esattamente, bellissima, bellissimo ragionamento questo, anche perché appunto riprende un po' quello che è stato detto oggi e adesso finora da noi, appunto questo è appunto, hai detto, una persona non bene informata dice, risponde ah sì, forse hai ragione, e quindi l'effetto catena è che quindi questi gruppi neofascisti si prendono più legittimità, più margine di lavoro, e quindi diciamo è un disastro. E appunto la causa è che appunto non c'è abbastanza sensibilizzazione su questi argomenti, su questi temi, su quindi anche il neofascismo e quindi come contrastare, quindi anche sensibilizzazione sul paradosso dell'intolleranza di cui abbiamo appena parlato, e quindi appunto nessuno lo sa, nessuno ne parla, e quindi non si sa come fronteggiare. E ti ringraziamo molto per questo intervento. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi, dagli è forte, continuiamo a istruirci ed essere antifascisti, antifasciste. Dai, ciao tesoro. Niente, ciao a tutti e tutti e tutto. Ciao, ciao, ciao, buona continuazione. Grazie. È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, non la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. E dopo questo piccolo tuffo nel passato, che ci sembrava doveroso fare, sì, beh, diciamo che facciamo l'ultimo tentativo di chiamata verso la studentessa del Virgilio, Margherita, e speriamo ci risponda, se no diciamo andiamo verso la conclusione della puntata. Intanto poi intanto mentre aspettiamo che risponda, cioè, insomma, quello che diceva Chiara è stato molto interessante, anche perché ha introdotto il discorso che prima non avevamo affrontato. Anche qua il bello della diretta. Pronto? Ehi, ciao Margherita. Ciao. Siamo in diretta su Radio ZAM, e è una puntata in cui stiamo parlando di fascismo, ma soprattutto antifascismo, nuove forme di antifascismo, e soprattutto in virtù di quello che è l'antifascismo nelle scuole, i movimenti studenteschi in generale. E volevamo ampliare un po' il confronto, oltre che noi tre, siamo tre ragazzi e ragazzi della rete studenti, e quindi volevamo un po' chiamare varie persone dalle scuole. Tu sei la fortunata studentessa del Virgilio, a cui vorremmo rivolgere una breve domanda, poi ti lasciamo libera, che è appunto la seguente. Secondo te come l'antifascismo serve all'istruzione, e analogamente come l'istruzione serve all'antifascismo? Se non è chiaro magari parafrasiamo. No, va bene, ho capito. Allora, secondo me l'antifascismo appunto dovrebbe essere un cardine fondamentale sia nella nostra società sia all'interno dell'istruzione, tanto che è anche alla base della nostra Costituzione. Appunto la scuola è tra le istituzioni principali del paese, che è chiamata un po' a tenere viva la memoria di quello che è stato appunto tutto il periodo della dittatura e poi della resistenza. Il modello scolastico attuale è ancora modellato sulla base della riforma Gentile, quindi basata su modelli fascisti che sono in totale antitesi con i fondamenti della nostra società, che invece dovrebbe essere basata sull'antifascismo. E appunto per me l'antifascismo sta alla base di una società equa, libera e solidale, e questi ideali fondamentali dovrebbero essere presenti anche all'interno dell'istruzione, in quanto la scuola è un luogo della cultura e un luogo dove noi giovani ci formiamo e cresciamo. Quanto invece la distruzione serve all'antifascismo, appunto, secondo me, essendo la scuola un luogo di pari, dovrebbe essere un luogo di pari opportunità e di uguaglianza sociale, secondo me un po' per questo, un po' anche il fatto che deve essere, l'antifascismo deve essere insegnato all'interno delle scuole, appunto la scuola diventerebbe questa una struttura sia fisica che non capace di appunto dare spazio al forte valore dell'antifascismo. Beh, una risposta molto bella, e soprattutto hai appunto toccato anche quelli che sono stati i temi di cui abbiamo parlato oggi, quindi si sposa perfettamente con i discorsi poco fa fatti da noi, e per cui grazie, bellissima risposta davvero. Niente. E niente, noi continuiamo con la nostra puntata. Ah, vabbè. Ok. Grazie mille. Grazie per questo intervento. Buon lavoro, ciao. Ciao, grazie. Dico continuiamo perché vorrei fare un po' il noioso e introdurre un ultimo argomento prima di appunto andare a finire con questa puntata. La cosa di cui voglio parlare io è di come l'aggregazione nelle scuole, o in generale l'aggregazione, sia una pratica antifascista, e di come questa sia un po' il fondamento dell'antifascismo o del neoantifascismo che si dovrebbe trovare nelle scuole. L'abbiamo visto soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui appunto la scuola è stata privata di uno degli elementi fondamentali, che è appunto la socialità, e nel senso che l'aggregazione e in generale la comunità, la collettività, soprattutto fra studenti e studentesse, è un fattore fondamentale per far sì che ci sia una società antifascista. Perché? Perché se c'è una forte aggregazione intorno al contesto antifascista, e se ci si ritrova fra individui che appunto condividono gli stessi ideali antifascisti, si va innanzitutto a creare una forte coscienza collettiva di quello che è l'antifascismo, e soprattutto di come collettivamente, di cosa collettivamente significa essere antifascisti e antifasciste. E in più si va un po' a, diciamo, allontanare, fra virgolette, vogliamo dire così, quell'individualità che invece hanno una mentalità fascista, che è un qualcosa che deve essere radicato, che deve essere sradicato dalla nostra società. E quindi è importante capire come, per esempio, tutti quegli esperimenti di collettività, o comunque di aggregazione, che sono esterni o estranei alla normale attività didattica, mi viene in mente le occupazioni, le autogestioni, che sono un qualcosa di fondamentale, perché appunto vanno a creare un forte senso di aggregazione e di collettività fra studenti e studentesse della stessa scuola, che magari non si sono mai potuti e potute incontrare, perché appunto non c'è mai stata la reale intenzione di creare un senso di comunità all'interno di una scuola, no? Perché all'interno di una scuola una persona deve essere una macchina che deve imparare a memoria qualcosa, vomitarlo all'interrogazione, entrare e andarsene. Ma la scuola non deve essere questo. E quindi la costruzione di una società diversa, ma soprattutto antifascista, si basa soprattutto a scuola, ma nello specifico nella collettività e nella comunità che si crea a scuola. E quindi appunto è per questo che tramite le occupazioni, per esempio le autogestioni, o quei momenti di didattica alternativa che di fatto costituiscono una condivisione dei saperi, e quindi vanno in totale antitesi e contrasto contro quello che è il metodo di insegnamento corrente e tradizionale. E quindi tramite questi momenti si va a creare A, una coscienza, B, una reale conoscenza della materia antifascista, e B, appunto, questo senso comune. Questo senso che ti fa capire come essere blocco contro il fascismo è forse la parte più fondamentale. Cioè, il trovare una comunità con la quale lottare contro questo... Un blocco di studenti. Sì, sì, certo, ovviamente non quello studentesco, perché sappiamo essere, anzi, una delle peggiori cose. Però il mio punto era, appunto, come la comunità a scuola, cioè la collettività a scuola, sia forse il fulcro della questione. Cioè, l'antifascismo serve all'istruzione, e l'istruzione serve all'antifascismo per creare una comunità e una collettività di persone unite, coscienti e profondamente antifasciste. Certo, infatti la creazione del senso di comunità e il senso della socialità all'interno della scuola sono forse le parti più penalizzate, se non penalizzate completamente dall'introduzione della didattica a distanza. Attraverso appunto quest'ultimo anno oramai noi abbiamo perso completamente quel momento comunitario, profondamente collettivo e autoformativo, che porta appunto alla creazione di comunità antifasciste anche all'interno direttamente delle scuole, in favore di un inasprimento e un avvicinarsi ancora di più a quei metodi che noi invece rifiutiamo completamente, perché sono completamente impersonali, sterili ed inutili. Per esempio la competitività tra compagni di banco è la cosa che più vediamo, cioè il fatto di essere sempre comunque in competizione contro, che appunto, chi dovrebbe invece essere al nostro fianco è un chiaro retaggio sicuramente nocivo. È nocivo per noi, per la nostra istituzione e per le nostre persone. E che va sicuramente combattuto attraverso la creazione di un senso di collettività all'interno delle scuole, anche attraverso operazioni come le occupazioni e i momenti di socialità. Esatto, questi momenti che vanno, come dicevo prima, adesso andiamo a chiudere, cioè il fatto di creare momenti di condivisione dei saperi, quindi non di insegnamento nel senso di trasferimento delle conoscenze da un contenitore all'altro, ma di condivisione dei saperi da pari a pari, o anche non da pari a pari chiaramente, però insomma da persone a persone e non da subordinato e non subordinato, serve per aumentare quel senso di coscienza che tutti e tutte dovremmo avere. Ed è anche per questo che noi, sempre per il ricordo di Dax, abbiamo organizzato, poi adesso vedremo se tutto questo si farà, ma noi punteremo sempre a farlo, un presidio il 10 al Parco Vetra 2 alle 14.30, quindi chiunque volesse partecipare assolutamente è il o la benvenuta, in cui ci sarà un momento di socialità, quindi un pranzo sociale, ma soprattutto ci sarà un'assemblea dei collettivi studenteschi proprio per parlare di Dax, per parlare di antifascismo, per parlare soprattutto di antifascismo nelle scuole e per riproporre un po' quei temi che ci siamo di cui abbiamo discusso qua oggi. Quindi ricordiamo che il contrasto all'educazione fascista di cui noi tutti e tutte siamo vittime si basa sulla condivisione di saperi fra pari e sulla in generale sulla condivisione di conoscenze e su un dibattito, un dialogo continuo che portino ad avere gli strumenti per comprendere realmente in modo critico e analitico la realtà che ci sta intorno. Niente da aggiungere, direi. È stato pienamente esaustivo. Esatto. E allora vi salutiamo. Sì. Grazie a tutte e tutti per averci seguito. E unitevi alla lotta, mi raccomando. Unitevi alla lotta, esatto. E noi ci vediamo nelle piazze. E nelle prossime puntate. E nelle prossime puntate. State connessi, certo, a Radio ZAM. Un giorno come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio, io. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora chi sto momento e tu li ha supera. Cado piaccio dalla mia in dio momento roccupa. Curro, curro, guaglio. Vivere una vita. vita intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o oh, perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio io io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento robesone, forse un licenziamento in tronco robadrone, forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore, guaglio, curro curro guaglio. Tanta mazzate pigliate, tanta mazzate ma tanta mazzate ma tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate ma tanta mazzate ma una buona l'ammarata è nata, è nata, è nata, nata, centro sociale occupata, nata, centro sociale occupata, e mogo cazzo c'è cacciata, è nata, è nata, è nata, nata, centro sociale occupata, nata, centro sociale occupata, e mogo cazzo c'è cacciata. Curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io. Perché prima mattina bombe popolita, me mattina mano in quello si vogliero. Mamma e guardia casa s'avetta pare, e lo spazio popolare non è buono, perché? Perché controculturale magari, perché? Rompo cazzo a troppa gente, sì ma allora perché? Tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se ando sta un'armatura io staccio buono, perché? Perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti narisce me, strunzate 40 anni potere, perché? Perché a gente te ne fa messa fa strunziate, tu mi manno celerina mi sgomberà a me, ma non basto manganiello mo to dico oi ne, perché non mi fai più male a giambara da care. Curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io io, curro curro vaglio, curro curro vaglio, io io. Yo, yo, yo, curro, curro, vaglio.